Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In controtendenza rispetto al resto d'Italia, in Friuli Venezia Giulia il centrodestra vince la sfida con il centrosinistra, conquistando i comuni principali nelle elezioni amministrative. Dopo i ballottaggi a Gorizia, Rodolfo Ziberna è confermato sindaco, cambiano invece le maggioranze ad Azzano Decimo e Codroipo. E proprio a Codroipo ieri una giornata di lutto e cordoglio per i funerali di Elisabetta Molaro, uccisa con 57 coltellate dal marito, decine di scarpe rosse deposte dinanzi al municipio in segno di solidarietà ai familiari della vittima. Ancora nessuna notizia dell'escursionista 31enne di Mortegliano, disperso da sabato sul Matajur. Nei suoi programmi c'era la ferrata Palma sul versante più impervio della montagna. Continuano a crescere contagi da Covid e ospedalizzazioni. I nuovi casi sono quasi il doppio rispetto a una settimana fa. Deficit idrico e siccità al centro della riunione dei tecnici del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, dopo che le piogge degli scorsi giorni avevano solo parzialmente dato sollievo alla grave siccità degli ultimi mesi. È buona la qualità dell'aria in regione, ma ora l'attenzione si sposta sul benzoapirene. Il comune di Trieste si riorganizza assumendo 8 nuovi dirigenti e 21 vigili urbani, al via il servizio sulla trasformazione digitale. La crisi ucraina ha fatto dimenticare il processo di allargamento dell'Unione Europea verso i Balcani. Se ne parla in un convegno a Udine. Minori stranieri non accompagnati migliorano le proposte d'apprendimento della lingua italiana, primo step verso l'integrazione. Le 7:19 minuti e 50 secondi, in questo istante avete appena sentito i titoli di questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che sarà condotta da Giorgio Beyerz e Anna Vitaliani. In apertura, come sempre, diamo però uno sguardo alle condizioni del meteo e alle previsioni per oggi. Il cielo è in prevalenza sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste ci sono 27 gradi, il mare è calmo con temperatura di 27 gradi, a Udine 21 gradi e mezzo, Pordenone 21 gradi, a Gorizia 20 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 20 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 17 gradi, a Piancavallo 14, a Tervisio 13 gradi e mezzo, a Sappada 13, sul Monte Zoncolan 17 gradi, sul Monte Lussari 15, passando sulla costa Lignano 26 gradi, a Grado 24, la temperatura del mare in queste due località di 27 gradi e 5 decimi. Le previsioni: oggi al mattino cielo in prevalenza sereno, in giornata velature ad alta quota determineranno cielo da poco nuvoloso a variabile, farà molto caldo, specie in pianura, venti a regime di brezza anche sostenuti sulla costa, dal pomeriggio probabili temporali sui monti anche forti, in serata e soprattutto nella notte successiva i temporali si estenderanno probabilmente su tutte le zone con possibili forti raffiche di vento e pioggia localmente intense. Cominciamo parlando dunque ancora di tornata amministrativa, conclusasi domenica scorsa in regione con i ballottaggi a Gorizia e Azzano Decimo, le vittorie del centrodestra contro il solo successo di Codroipo per il campo avverso, delineano quindi una tendenza opposta ai risultati nazionali che hanno invece premiato lo schieramento progressista. L'analisi complessiva e i commenti al voto delle forze politiche nel nostro servizio di apertura. Il centrodestra vince 3 sfide su 4 nei comuni sopra i 15.000 abitanti, Gorizia e Azzano comprese, strappa altri municipi al centro-sinistra, compresa la simbolica Cervignano, ne conferma altri senza grossi problemi quando non con vittorie epocali come è accaduto a Monfalcone. Precondizione per tutto questo, spiega il presidente Fedriga, l'unità del centrodestra che però da sola non basta. Avere un programma di governo serio, prospettare un futuro per l'amministrazione che si è chiamati a rappresentare e forse fare una promessa in meno ed essere un pochino più concreti. Da Forza Italia arriva prima di tutto la soddisfazione per la riconferma di Ziberna, premio, spiega Sandra Savino, ad un amministratore capace e in grado di portare avanti programmi e progetti seri per migliorare la vita dei cittadini. Festeggia anche Fratelli d'Italia, che guarda già alle prossime scadenze. Il segretario regionale Walter Rizzetto. Grande soddisfazione per un centrodestra che vince praticamente ovunque, in Friuli Venezia Giulia e Fratelli d'Italia, che va a incrementare indubbiamente le percentuali di 5 anni fa. Ora Fratelli d'Italia e tutta la coalizione di centrodestra pronta per le prossime battaglie che saranno le elezioni politiche e le elezioni regionali. Nel campo avverso, anche partendo da alcuni successi locali come Codroipo, Eduino, Aurisina che cambiano verso, c'è la voglia di ricostruire anche partendo dal risultato di Gorizia rimasto effettivamente in bilico. A dimostrazione, dice il segretario del PD Cristiano Sciaurli, che con una unità ampia e candidati autorevoli il centrosinistra è competitivo. Dove la coalizione si presenta unita e capace di allargare il perimetro della propria proposta politica, anche in Friuli Venezia Giulia le elezioni sono ampiamente contendibili, con la consapevolezza che c'è ancora molto da fare per presentare un fronte progressista compatto che si contrapponga chiaramente alle forze sovraniste di destra della Lega in particolare. Su una lunghezza d'onda simile, il Movimento 5 Stelle, che in queste elezioni non ha fatto eleggere nessun consigliere comunale, il parlamentare Luca Sud. È il momento di ricostruire ripartendo dai territori dove siamo nati. Rimaniamo aperti al dialogo e quindi all'apertura verso un campo con le forze progressiste e che include in primis il mondo del civismo. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Rodolfo Ziberna si conferma dunque sindaco di Gorizia, per lui il 52,2% dei voti a favore, a sostenerlo Lega, Noi con l'Italia, lista Ziberna sindaco, Fratelli d'Italia e Forza Italia, sconfitta Laura Fasiolo che aveva il sostegno delle forze del centro-sinistra. Vinte le elezioni per la seconda volta, Ziberna ora prepara la giunta. A breve riceverà una rosa di nomi da parte delle liste che lo hanno sostenuto e farà le sue scelte. Sceglierò in base alle competenze che ha ciascuno, naturalmente le caselle che questi dovranno occupare. Un tecnico l'ho già individuato, Lucio Beltrame, un bravissimo dirigente, ex dirigente finanziario della provincia, ma è stato anche dirigente in comune. Non gli ho mai chiesto per chi votasse e non glielo chiederò mai. È un tecnico, io credo che in questo momento, in questo settore, appunto bilancio e finanze, abbiamo bisogno davvero di una marcia in più. Preparata la giunta, Ziberna assicura di voler collaborare con l'opposizione. Allargare la platea di chi andrà a decidere, perché la città non è né del sindaco né della giunta né del consiglio comunale, ma perlomeno il consiglio comunale è espressione in questo caso del 41% della città. Trovare un terreno comune, assicura, si può. Deve essere la capitale europea della cultura, sia per quanto riguarda gli eventi, sia per quanto riguarda gli investimenti. Commercio è essenziale, lavoro è essenziale, università è essenziale. I giovani, il lavoro, i servizi per gli anziani, le periferie sono i temi sui quali la sua sfidante Laura Fasiolo ritiene si possa collaborare. Anche Pierpaolo Martina, che ha dato vita ad un polo di centro, assicura di essere pronto a votare in base ai contenuti e non agli schieramenti. Ed è proprio a Martina, che al primo turno ha avuto il 10,4% dei consensi, che Fasiolo guarda con molta attenzione. Il nostro programma è quasi sovrapponibile a quello di Martina. Io non ho capito le ragioni della sua, come dire, non indicazione di voto. Quindi, secondo me, potrebbero esserci quasi a 360 gradi delle convergenze. Gorizia, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. Gli altri risultati dei ballottaggi alle amministrative hanno visto Codroipo passare dal centrodestra al centrosinistra. Il nuovo sindaco è Guido Nardini, con poco meno del 59% di preferenze. Cambia colore anche il comune di Azzano Decimo, ma in questo caso si passa dal centrosinistra al centrodestra. Qui il nuovo sindaco è Massimo Piccini, che ha ottenuto oltre il 60% dei voti. Tornando a Codroipo, è stata tanta la commozione ieri pomeriggio per il funerale e l'ultimo saluto della comunità di Elisabetta Molaro, uccisa con 57 coltellate dal marito Paolo Castellani nella notte tra il 14 giugno e il 15. Un accanimento selvaggio, mentre nella camera accanto dormivano le loro due bambine di 5 e 8 anni, ora affidate alle cure della nonna materna. Esce in un feretro chiaro dal Duomo di Codroipo per l'ultimo viaggio Elisabetta Molaro, uccisa a coltellate dal marito Paolo Castellani, da cui voleva separarsi. Il silenzio nell'aria è carico di commozione. Lutto cittadino, le telecamere rimangono all'esterno, ma dentro la chiesa è gremita. Chi non trova posto ascolta la funzione nel piazzale antistante. Sul petto in molti portano un drappo rosso. È stata dura per tutti, perché è una cosa, insomma, che solitamente si sente in giro per l'Italia, però quando succede in una piccola comunità come quella di Codroipo colpisce tutti quanti, quindi è dura per tutti, soprattutto per le bimbe. Io sono mamma di una bambina di 11 anni, quindi erano a scuola insieme. Elisabetta aveva sempre lo sguardo rivolto al futuro. Formiamo una cordata per superare questo momento doloroso, l'auspicio di Monsignor Ivan Betuzzi, che ha officiato la liturgia di commiato. In questi giorni la rete di amicizie ha fornito riparo alla famiglia dal clamore degli eventi e ha organizzato raccolte fondi per aiutare le due figlie della coppia. Nei negozi e davanti al municipio, le scarpette rosse, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Il passaparola è partito da amiche e amici di Elisabetta. La prima cosa che ho pensato è appunto di fare un qualcosa per sentirmi vicino a lei e comunque per la famiglia e queste bambine. Troppa l'emozione, in tanti non se la sentono di parlare, ci affidano però un messaggio. Queste scarpette non sono solo per Elisabetta, ma per tutte le vittime di femminicidio in tutta Italia. Codroipo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: c'è stata una violenta lite seguita da una sparatoria ieri a Bibione fra alcuni dipendenti di un'agenzia di locazioni estive. Dall'azienda lo scontro si è poi spostato tra le case popolari della cittadina balneare. L'aggressore, che si è dato la fuga, ancora armato ed è tuttora ricercato, è un albanese di 55 anni, residente a Bevazzana, frazione di Latisana. Tre i feriti, due sono albanesi, uno è grave, ferito di strisce un 60enne di Latisana che aveva cercato di sedare la rissa. Un'altra notizia di cronaca arriva dal Veneto. Nel primo pomeriggio di ieri è crollata la tettoia del palco che doveva ospitare stasera il concerto della cantante monfalconese Elisa Bassano del Grappa, che è stato rinviato al 3 di agosto. Due operai sono rimasti feriti, ma in modo fortunatamente non grave. Secondo quanto si è appreso, la tettoia del palco era stata già montata, ma si è piegata a 45 gradi crollando sulla base della struttura. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area transennandola. Sul posto carabinieri e polizia per chiarire le circostanze dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità. Sono riprese alle 6 di stamane con il sorvolo dei droni le ricerche ancora senza esito purtroppo dell'escursionista 31enne di Torreano, di cui non si hanno più notizie da sabato scorso, mentre stava percorrendo la ferrata Palma sul monte Matajur. Fino a ieri sera decine di tecnici del soccorso alpino sono stati impegnati nella perlustrazione di sentieri assieme ai vigili del fuoco, polizia locale e con il supporto dell'unità cinofile del soccorso alpino e dell'elicottero della protezione civile. Un primo sorvolo di droni era stato fatto ieri all'arrivo della squadra specialistica da Varese, ma era sera ormai e quindi si spera che oggi con la luce si arrivi a qualche risultato. Si sta operando anche sullo studio delle celle telefoniche agganciate dal cellulare dello scomparso. Ha avuto buon esito l'intervento del personale della stazione di Moggio Udinese, che con sei tecnici assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale ha tratto in salvo ieri pomeriggio un giovane rocciatore di 19 anni residente a Monfalcone, caduto per 20 metri sulla via Gocce di Tempo sulla parete del Monte Cavallo nelle Alpi Carniche, illesa la compagna che era con lui. Recuperato dall'elicottero, è stato poi portato in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo. L'uomo ha subito traumi a schiena, a testa e ad una gamba. È scoppiato alle prime luci dell'alba un incendio all'interno del centro di raccolta rifiuti di Isontina Ambiente di Molaro a Ronchi dei Legionari. I vigili del fuoco hanno già domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. E ora la situazione dei contagi da coronavirus in regione: continuano a crescere contagi e ospedalizzazioni. I nuovi casi sono 356, quasi il doppio rispetto ad una settimana fa. 1910 tamponi analizzati con un tasso di positività che è al 18,64%. Anche ieri si è registrato un decesso, 9 le persone ricoverate in terapia intensiva, 155 negli altri reparti Covid. Siccità e deficit idrico al centro della riunione dei tecnici del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, dopo che le piogge degli scorsi giorni avevano solo temporaneamente alleviato la condizione di grave siccità degli ultimi mesi. Stabilito di procedere alla riapertura degli impianti di irrigazione anche alla luce delle previsioni meteorologiche che per i prossimi giorni indicano assenza di precipitazioni in pianura e temperature molto sopra la media. L'irrigazione prevede razionamenti legati al basso livello delle falde, in particolare nella zona di Orzano e Premariaco, in alcuni pozzi del Medio Friuli. Relativamente ai corsi d'acqua superficiale, verrà ripresa dopo l'interruzione dei giorni scorsi l'integrazione delle portate del tagliamento mediante rilasci che la società A2A effettuerà dal serbatoio dell'Ambiesta. Anche quest'anno la Regione assicura un servizio di informazione rivolto alla popolazione, in particolare alle fasce più fragili, per ridurre e prevenire i gravi danni alla salute conseguenti agli innalzamenti della temperatura ambientale. Il numero a cui rivolgersi per chiedere informazioni, suggerimenti suggerimenti e consigli è lo 0434223522, digitando poi il tasto 5 alla voce guida. Gli orari del servizio sono da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19 e sabato dalle 8 alle 14. Vengono fornite indicazioni su come affrontare nel miglior modo possibile le ondate di calore. Il servizio resta attivo dal 1 giugno al 30 agosto. Ulteriori informazioni utili su quali comportamenti adottare si possono reperire sui siti web delle aziende sanitarie. La qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia è sostanzialmente buona per la maggior parte degli inquinanti monitorati e quanto emerge dalla relazione sulla qualità dell'aria in regione anno 2021 presentata dall'ARPA a Trieste. Il costante miglioramento della qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia, ha detto l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, è dovuto al perfezionamento dei modelli di produzione dell'industria degli autoveicoli. Sono invece fonti emergenti di inquinamento gli allevamenti intensivi, alcuni tipi di fertilizzanti chimici e il riscaldamento nell'uso domestico. Bene le polveri sottili, ozono da monitorare, benzopirene da ridurre in alcune zone. Il particolato atmosferico è basso su tutto il territorio, qualche criticità c'è nel Pordenonese che risente del forte inquinamento di tutta la pianura padana. Due tecnici dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale con la qualifica di tecnico della prevenzione ed esperienza in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro saranno distaccati presso la procura del Tribunale di Pordenone. Un accordo innovativo che nei piani dovrebbe contribuire a ridurre gli infortuni gravi sul lavoro e le malattie professionali, agendo sia dal punto di vista della repressione che da quello della prevenzione. L'hanno sottoscritto l'azienda sanitaria Friuli Occidentale e la procura di Pordenone. La convenzione prevede il distacco a rotazione semestrale di due tecnici della prevenzione, già ufficiali di polizia giudiziaria dell'ASFO, in procura. L'obiettivo è quello di migliorare l'utilizzo delle risorse umane e saltare alcuni passaggi burocratici quando si tratta di indagare su un infortunio sul lavoro appena accaduto. Sentiamo Andrea Del Missier, sostituto procuratore di Pordenone. L'obiettivo è di cercare di rendere un servizio giustizia migliore per i cittadini. E questa interazione stretta che avremo con l'azienda sanitaria e con i tecnici della prevenzione in particolare auspichiamo che abbia questo risultato attraverso una condivisione delle competenze nostre come magistrati e delle competenze dei tecnici della prevenzione dell'azienda sanitaria dal lato dell'ASFO. La parola ora a Carlo Bolzonello, dirigente professioni sanitarie, area prevenzione, ASFO. Il primo obiettivo era quello di non intasare di notizie di reato, qualche volta inutili o che pervengono in maniera tardiva rispetto a quelle che sono invece le indagini da prendere subito in carico e di andarle subito ad approfondire. A questo punto invece, avendo due persone direttamente distaccate presso la procura, questo ci permette di affrontare nell'immediatezza i fatti senza doverci scrivere tutta una serie di azioni che mettiamo subito in campo. I dati delle morti sul lavoro nel Pordenonese sono drammaticamente alti, 2 nella prima metà dell'anno in corso, 18 dal 2017, la maggior parte nei settori agricolo, industriale ed edile. Pordenone, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Il lavoro delle commissioni oggi in Consiglio regionale si comincia alle 10 con il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che Roberto Cosolini del PD ha convocato per esaminare la relazione prevista nella legge regionale sugli interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psicofisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro. E per votare il rapporto sulla legislazione e le altre attività consigliari. Alle 11.30 la quarta commissione, presidente Mara Piccin di Forza Italia, esprimerà un parere sulla delibera di modifica del regolamento che disciplina gli incentivi a favore dei meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa. Discutere dei valori fondativi dell'Unione Europea e della sua capacità di essere motore di un futuro condiviso ed inclusivo è l'obiettivo del convegno internazionale We the People of the United Europe che si terrà all'Università di Udine oggi e domani a partire dalle 9.30 nell'aula A del Polo di via Tomadini 30. Le due giorni è stata organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche. Il convegno è strutturato in 3 tavole rotonde con il coinvolgimento di studiosi da Italia, Albania, Montenegro e Serbia. Al telefono abbiamo raggiunto la coordinatrice del progetto Laura Montanari, alla quale chiediamo che cosa si intenda oggi per identità europea. Oggi proprio ci si deve domandare qual è questa identità europea di cui si parla, il termine che si usa, ma poi bisogna riempirlo di contenuti e questo è un momento cruciale. se mi chiede oggi che cosa penso io, penso un'identità costruita intorno a dei valori, costruita intorno a una cittadinanza europea. Però vedremo che proprio questi elementi fondativi oggi sono spesso messi in discussione. A questo si aggiunge la guerra in Ucraina con il dibattito interno all'Unione Europea sulla possibilità di estendere all'Ucraina lo status di paese candidato, però non si parla più dei Balcani, prima c'erano loro in qualche modo. In qualche modo l'Unione è chiamata a guardare a se stessa, a dire chi è per proporsi agli altri, e il percorso dei Balcani occidentali è un percorso molto complesso, iniziato dopo le guerre, la guerra in Bosnia e Erzegovina, poi oggi parliamo di una nuova guerra in Europa, però anche quella è stata una guerra in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, e la maggior parte di questi paesi sono ancora lungo questo percorso. La Bosnia e Erzegovina non è neppure paese candidato. Le conclusioni proprio recenti del Consiglio europeo, che hanno riconosciuto la posizione di paese candidato all'Ucraina e alla Moldavia, sono sicuramente importanti nel contesto della guerra, di quello che sta succedendo, importanti per il futuro dell'Unione Europea, però riaprono il dibattito sulla posizione dei Balcani, rispetto a cui l'Unione Europea ha assunto nuovamente una posizione, uso il termine attendista per non utilizzare un termine più duro, perché sono paesi che davvero hanno avviato questo percorso da molti anni. Il Comune di Trieste ha presentato ieri pomeriggio al Museo Revoltella il nuovo organigramma, che prevede anche l'assunzione di 8 nuovi dirigenti. Il Comune di Trieste si riorganizza e assume 8 nuovi dirigenti che saranno operativi entro la fine dell'anno, 3 amministrativi e 3 tecnici, assunti con 2 concorsi nel 2021, ai quali se ne aggiungeranno altri 2 che dirigeranno i servizi sociali e la trasformazione digitale e che saranno invece attinti dalle graduatorie esistenti o da un nuovo concorso. Le nuove assunzioni rappresentano il 30% dei dirigenti in servizio, ha spiegato il direttore generale del Comune Fabio Lorenzut. È un lavoro che è durato un anno, quello che ha portato alla ristrutturazione dell'organigramma del Comune. Tra le principali novità, l'abolizione del Dipartimento dei Lavori Pubblici e la riconduzione all'interno di un unico dipartimento di tutti i servizi di carattere tecnico, territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio, dove si ritrovano sotto lo stesso tetto l'immobiliare, l'edilizia scolastica e sportiva. Nasce il servizio trasformazione digitale, mentre musei e biblioteche, vacante dal 2021, si sposta al Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Il 1 luglio saranno operativi anche 27 nuovi dipendenti amministrativi e tecnici, mentre il prossimo mese sarà indetto un concorso per l'assunzione di 21 vigili urbani. Altre piccole novità saranno introdotte nel corso dell'estate per arrivare a lavorare in autunno con una truppa ben rinforzata, per usare le parole del direttore generale Lorenzut. Soddisfatto anche l'assessore alle risorse umane Stefano Avian, che ha parlato di un sistema molto più efficiente e snello. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Inclusione dei minori stranieri non accompagnati, una sfida ancora aperta. Oggi alle 9.30 si terrà il terzo evento di chiusura del progetto Femi Inspire, promosso da Civiform, capofila del progetto. Durante il webinar ci sono ancora posti disponibili. Si parlerà anche dell'esperienza di Save the Children nei percorsi di inclusione dei minori stranieri, ma anche di ciò che fa l'UNHCR Italia sugli standard e cenni normativi della protezione dei minori, fino a parlare dell'esperienza dell'Emilia Romagna sugli strumenti e le tipologie più virtuose messe in campo in Italia per facilitare l'apprendimento linguistico dei minori stranieri. Al telefono abbiamo raggiunto la responsabile del progetto, Renata Purpura, di Civiform, che ci dice a chi è rivolto questo webinar. È rivolto a tutti coloro che sono interessati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, quindi sia i cittadini che possono essere interessati a svolgere il ruolo di tutori, ma anche a tutti gli operatori, assistenti sociali ed educatori che a vario titolo lavorano nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Immagino che partirete da un bilancio del progetto Femi Inspire. È stato un progetto che ha visto molti collaboratori e molte persone collaborare insieme, sia degli enti pubblici che privati, per cercare di trovare delle modalità didattiche all'avanguardia, come per esempio quelle con i video, piuttosto che altre forme che mettessero al centro la persona, per insegnare l'italiano come lingua seconda a coloro con i quali vengono accolti nella nostra regione. L'importanza di conoscere l'italiano è fondamentale, perché è di fatto l'integrazione vera e propria e poi la possibilità di vedere un futuro nel nostro paese. Assolutamente, l'insegnamento dell'italiano e l'apprendimento dell'italiano come lingua veicolare è indispensabile per poter lavorare nel nostro paese e integrarsi, sia per le questioni ben note della sicurezza sul lavoro, sia proprio per l'integrazione sociale, lavorativa e in generale di integrazione. Il problema nell'accoglienza resta trovare chi si prende carico di questi ragazzi, lo ripetiamo, minori, cioè i tutori. Tanti hanno paura di aver troppe responsabilità. È vero che oggi i corsi per i tutori non sono ancora ben sviluppati a livello di destinatari, numero di persone interessate. È anche vero che esistono delle comunità di accoglienza nel nostro territorio regionale dove ci sono i tutori che si prendono cura dei ragazzi in comunità dedicate e organizzate con attività ludiche, sportive, di accoglienza, istruzione e formazione. Siamo allo sport calcio, ufficializzato il programma dell'amichevole dell'Udinese durante il ritiro in Austria che comincerà l'11 luglio a Linz. Si comincia contro la squadra locale il 13, poi tre test contro squadre tedesche, l'Union Berlino il 16, lo Schalke 04 il 17, il Bayer Leverkusen il 21. La serie di amichevoli inter-austriaca si concluderà il 24 luglio contro la nazionale del Qatar e il giorno successivo contro i ciprioti del Paphos. Calcio a 5, il palazzetto di Manzano ospiterà questa sera la prima delle due amichevoli tra Italia e Bosnia e Erzegovina in preparazione alle qualificazioni mondiali di settembre, inizio alle 20:30, domani la sfida bis. Basket, la Pallacanestro Trieste ha ingaggiato il play triestino Stefano Bossi che torna così in biancorosso dopo 5 stagioni dopo un'esperienza con l'Urania Milano. Dopo il rinnovo di Corey Davis, completiamo così il reparto playmaker con l'arrivo di Stefano, queste le parole del coach Legovic, un giocatore che conosciamo e di cui è noto l'attaccamento alla maglia triestina. Pallanuoto femminile, la squadra di Trieste, militante in A1, ha ingaggiato il portiere Loredana Sparano, 27 anni, cresciuta nel settore giovanile del Posillipo. Nella scorsa stagione ha militato nel Verona, con la calottina del Sette Rosa ha disputato il Mondiale del 2013, l'Europeo del 2020, le qualificazioni olimpiche del 2021 che si tennero proprio nella piscina Bruno Bianchi di Trieste. E alle 7:45 minuti in questo istante cominciamo la rassegna stampa dalla prima pagina del piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone. La vittoria al ballottaggio di Ziberna che dice squadra unita per la partita di Go 2025. Per il sindaco è nato il vero centrodestra, mandato decisivo per la città, sì al dialogo con l'opposizione. Dal fronte del centrosinistra la sfidante Fasiolo ricrimina e dice il PD doveva candidarmi prima. E ora si aprono gli scenari regionali. Il centrodestra, guidato da Fedriga, si offre a Roma come laboratorio politico. Integrativo Fincantieri arriva l'una tantum di 350 euro, prorogato l'accordo. Il bonus arriverà a settembre. Si apre ora la trattativa per il rinnovo del contratto aziendale. Cede tettoie del palco per il concerto della monfalconese Elisa, due operai feriti lievi di cui abbiamo parlato prima nella cronaca, il prato, le luci, le rose, svelato il nuovo volto del bastione fiorito, infine il festival Geografie in riva al mare con i concerti e la moda di Monfalcone estate, ricco il cartellone di eventi che ogni anno anima la città nei mesi più caldi e che debutta per questa stagione in concomitanza con l'avvio dei saldi e all'insegna quindi della Notte Bianca. Il Messaggero Veneto apre con un'immagine forte, le scarpette rosse distribuite sulla piazza di Codroipo e quindi i funerali di Elisabetta Molaro. E poi a centro pagina le misure contro l'evasione, posto obbligatorio, chi non lo accetta sarà multato, 30 euro più il 4% del valore della transazione, ma il nodo principale resta quello delle commissioni. E poi di spalla la politica con l'intervista a Enrico Letta, agenda sociale e rinnovamento, così batteremo i populisti, e poi l'esito del voto, il centrodestra in controtrendenza in regione tiene e cresce. In prima pagina spazio anche alla cronaca con la tettoia del palco crollato a Bassano del Grappa dove si stava allestendo il concerto di Elisa e la scomparsa del giovane sul Matagliore, infine la sparatoria dopo la lite a Bibbione, ferite tre persone. Nelle pagine interne segnaliamo la morte di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, notizia che fa da padrone oggi nei quotidiani e sul Messaggero lo troviamo in chiave regionale, quindi una riflessione sull'ultima battaglia per generali, voleva fare delle Leone la più bella compagnia assicurativa europea. E poi l'intervista a Riccardo Illy: era interessato alla nostra regione, è stato un grande one man band, dice. Nel 2002 l'Università di Udine gli conferì la laurea honoris causa. L'apertura della cronaca cittadina dedicata al mancato trasferimento del reparto di ostetricia e ginecologia nella nuova sede causa Covid. Il Gazzettino edizione del Friuli apre sulla mancanza di manodopera, senza camerieri, titolo al giornale, chiusi a pranzo. Le difficoltà a trovare personale costringono i ristoranti a scegliere di aprire solo per mezza giornata in piena estate. L'appello della FIP, il reddito di cittadinanza fa troppi danni, abolirlo subito. L'autunno, dicono, sarà drammatico. E poi la fotonotizia di centropagina con il report dell'ARPA. PM10 molla la presa, allarme ozono. Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste, lo sviluppo del porto, treni container cinesi, Cosco investe su Trieste dopo il Pireo e la Croazia, il colosso dello shipping di Pechino sceglie lo scalo regionale come nuova porta di accesso all'Europa centrale con più convogli a settimana. Di spalla nella cronaca 40 rinforzi per il comune, 16 vigili in più. Dopo le tensioni di domenica scorsa tra alcuni bagnanti e la guardia costiera, il rischio maxi multa non frena i tuffi vietati al molo del Cedas. A centropagina la fotonotizia, così Valmaura cambia con il nuovo supermercato. In via dell'Istria fervono i preparativi per l'inaugurazione del nuovo supermercato nell'area un tempo occupata dal centro elaborazione dati dell'ex Cassa di Risparmio. L'investimento include anche la realizzazione di una rotonda e trasforma un'area da anni abbandonata. Fedez, Elodie, Coez, una parata di stelle a Porto Piccolo che diventa il palcoscenico dell'evento musicale ripreso da Rai 1 che vedrà oggi e domani esibirsi artisti come Achille Lauro, Elisa, Fedez, Elodie, Mario Biondi, Coez, Gaudiano, La Rua e molti altri. L'apertura del capocronaca del Messaggero di Pordenone è dedicata agli eventi estivi, partono i concerti al San Valentino, il parco diventa arena della città per Pordenone Live, venduti 9.000 biglietti, l'accesso all'area nord sarà ridotto. E poi l'iniziativa per arginare gli infortuni sul lavoro, di cui abbiamo sentito poco fa, in un anno 1.000 multe per 300.000 euro, firmato l'accordo tra ASFO e Procura, i primi 6 mesi di sperimentazione hanno dato esito positivo. E poi il punto sul futuro dell'area dell'attuale ospedale Santa Maria degli Angeli, che dal 2024 non sarà più attivo perché aprirà le porte il nuovo nosocomio. Prevista la demolizione di tutti i vecchi padiglioni e il titolo, al posto dell'edificio d'ingresso non sarà più realizzato il parcheggio. Alcuni appuntamenti di oggi: comprendere i rischi connessi all'utilizzo dei sistemi digitali, valutare il livello di sicurezza al quale opera la propria impresa, trarre spunti concreti per l'adozione di strumenti e contromisure utili a ridurre rischi e proteggere gli asset aziendali più strategici, hardware, software e dati. Sono queste le tematiche al centro del live webinar Cyber Security, tutelare l'impresa nell'era del 4.0, proposto dall'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia con FAPI questo pomeriggio con inizio alle 14. Al via oggi la 6ª edizione del collaudato Pordenone scrive Junior, dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria, prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, quindi dai 10 ai 13 anni. È il campus d'autore estivo per giovani lettrici e lettori che amano scrivere, l'occasione per comprendere i meccanismi della scrittura in tante declinazioni, per appassionarsi ai libri e crescere accompagnati dalla meraviglia delle storie. In programma 4 lezioni tematiche da 3 ore ciascuna che si terranno dalle 9.30 alle 12.30 nella sala Ellero di Palazzo Badini. La prima sarà tenuta da Enrico Galiano, il professore più amato del web, che spiegherà come nasce una storia, come cresce, come diventa adulta, dal racconto breve a piccoli passi verso il romanzo. Ma la vera novità di quest'anno è il master dedicato alla scrittura per ragazzini più grandi dai 12 ai 16 anni. Si inizia il 5 luglio e c'è ancora tempo per iscriversi. E un'altra bella iniziativa dedicata ai giovanissimi è quella che inizia proprio oggi, che durerà 3 giorni a Popolaro, borgo del comune di Comeglians, in occasione del laboratorio di songwriting in cui i preadolescenti della Valdegano, con la guida di Marco Anzovino, avranno modo di costruire da zero una canzone collettiva, scrivendola, interpretandola e con il supporto dei professionisti realizzare una coreografia e un videoclip. Oggi alle 11 nella sede IRES del Friuli Venezia Giulia di Udine si terrà la cerimonia di consegna di 2 premi di laurea del valore di 500 euro ciascuno, intitolati al ricercatore Domenico Tranquilli, fondatore dell'istituto che ha diretto con varie cariche fino al 2003. Saranno presenti i premiati, la moglie di Domenico Tranquilli, Cristina Barazzutti. Al via da oggi Verdi d'estate, rassegna estiva del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 20.45, ospitati dal giardino del Palazzo Comunale. Popolari, biglietti di ingresso all'ingresso, 5 euro per gli spettacoli musicali e 3 per quelli dedicati ai bimbi. Si inizia stasera con Passeggeri, taccuino musicale di Un viaggio straordinario con Adelaide Ristori. Ultimo appuntamento con il jazz per il cartellone Estate in Pescheria del Teatro Verdi di Pordenone nella sua arena estiva di Piazzetta Pescheria. Alle 21 la voce di Vanessa Tagliabue York con la sua York Orchestra, una piccola orchestra jazz in cui troviamo alcuni dei più importanti musicisti italiani ed europei di jazz contemporaneo. A 14 anni dalla costituzione dell'associazione ASPIC viene inaugurata oggi la sede del volontariato alle 11 presso il centro commerciale Città Fiera a Martignacco. Alle 18.30 all'antico caffè San Marco di Trieste Marco Forneris presenta il suo libro Ritratto di fanciulla, dialoga con lui il giornalista Pierluigi Sabatti, mentre l'attore Gualtiero Giorgini leggerà alcuni brani del libro. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vue o Fevelin parlerà della siccità, a seguire dalle 11.20 circa Radar, salvaguardare la biodiversità marina e della terraferma, il libro Rachel Carson e la primavera dell'ecologia di Luca Novelli. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. E si conclude così questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Anna Vitaliani e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi e Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.